Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo alla sesta puntata del nostro notiziario anticlericale. E è partito dalle campane per passare ai crocifissi, gli incidenti disgraziati che hanno colpito il clero, le estorsioni nella storia della Chiesa, i fulmini anticlericali. Oggi parliamo delle false reliquie e cominciamo dall'enigma dei due teschi di Lazzaro. Il truffatore fu certo Fra Bellino De Crotti, che nel Medioevo riuscì a rifilare a due paesini del Bergamasco i due crani di Lazzaro. E passiamo proprio a Firenze, con la reliquia di San Francesco conservata in Santa Croce. La presunta tunica di San Francesco in Santa Croce in realtà è falsa, perché analisi scientifiche hanno dimostrato che è posteriore, molto posteriore alla morte del santo. E passiamo alla storia delle crociate di Steven Runciman e Einaudi 1966. Dove a pagina 813 si parla di questo cattolico re Andrea II d'Ungheria, cui furono rifilate da astuti falsari le anfore delle nozze di Cana. A Santiago di Compostela un altro truffatore ha rifilato a questo santuario famosissimo i 30 denari di Giuda. Sulle false reliquie passiamo alla Francia, dove sono stati trovati falsi i resti di Giovanna d'Arco. In realtà sono ossa di gatto. Sempre dalla Francia, un vecchio articolo di Calvino segnala il famoso eretico ginevrino, costretto a fuggire a Ginevra, ma lui è nato in Francia, e segnala come del presunto sangue di Cristo è in mostra in più di 100 luoghi. Segnaliamo un vecchio libro sulle reliquie, e da Sugarco Edizioni nel 2007, dove si segnalano falsità di ieri e di oggi, tra cui il fatto che si può trovare ancora in internet qualche reliquia famosa dei Re Magi, dello Spirito Santo, eccetera. La rivista Scienze Paranormale ci segnala come ci sono ben 4 lance che trafissero il corpo di Cristo, una a Hofburg a Vienna, una a Roma, una a Parigi, una a Cracovia e ecco l'altra, appunto, come dicevo, a Vienna. Sulla rivista Tempo Medico si parla, appunto, anche qui delle false reliquie e dei 33 pepuzzi di Gesù e del fatto che con le schegge di legno della croce si potrebbe costruire un boschetto e idem con le spine della corona di Cristo. E prima di passare a Dulcis in Fundo, al famoso reliquia del prepuzio di Cristo, andiamo a Lanciano, in provincia di Chieti, dove negli anni 70 questa famosa ostia fu esaminata con metodo scientifico e si scoprì che era una sottile fetta di cuore umano conservata per dissecazione con tracce di sangue. Ma veniamo alla reliquia principale, che è la reliquia del prepuzio di Cristo, il famoso Lucazzo Santo, che fu preso in giro dalla rivista satirica Cuore nel 1999 e ho conservato la pagina relativa. L'ultimo fra i viventi ad aver visto il sacro prepuzio fu Giancarlo Croce. Gliel'aveva mostrato Don Magnoni, parroco di Calcata in provincia di Viterbo. Il prete già da diverso tempo teneva la reliquia in una scatola di scarpe ben nascosta in un armadio di casa per paura dei ladri. La tirava fuori solo una volta all'anno per rimetterla al suo posto in chiesa, dove i credenti l'avevano venerata per secoli. E nell'articolo c'è anche l'intervista al parroco, e gli si chiede: parlare del prepuzio di Cristo? No, non si può più parlarne. È vietato parlarne. La reliquia fu accantonata con un'ordinanza papale già dai primi del Novecento. Non si poteva far vedere pena la scomunica. Poi è stata rubata, dice il parroco. E poi dichiara oltretutto, data per scontata l'assunzione in cielo del corpo di Cristo, il fatto che ne rimanesse un pezzetto in terra era quantomeno imbarazzante. Che mi dice dell'autenticità del reperto? Ma che vuole che crediamo a queste cose? Ci facevamo pure le battute fra preti, cioè, e il mio predecessore mi diceva: ancora credi a Lucazzo Santo? Bene, saluto a tutti gli amici e compagni di Radio Wombat e ci rivediamo alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Salutissimi. Tutti i bambini...